Letture di Radio 24. Il progetto Solidali, nato all'interno dell'Agenzia per il Lavoro, ha lo scopo di promuovere l'integrazione della comunità cinese a Prato, la più grande d'Italia e la terza in Europa, dopo quelle di Londra e Parigi. Lo scopo è anche quello di far emergere la produzione sommersa nel settore dell'industria tessile. A coordinare il progetto viene chiamata Federica, una ragazza italiana che ama la Cina e che parla il cinese. Come racconta Davide Orsini nel suo libro La muraglia cinese, Federica dovrà cercare di stabilire un contatto con la Chinatown pratese, in un momento in cui la crisi sta creando un malumore diffuso nei confronti dei cinesi. Una sera, il suo amico Liu le racconta di una retata della polizia avvenuta in una fabbrica di Prato. Polizia, vigili del fuoco e ispettori dell'ASL avevano fatto irruzione nella fabbrica. Una cosa tranquilla, senza nemmeno quel fuggi-fuggi generale che ti immagini avendo visto troppi film, o perché, in fondo, tutti si metterebbero a correre, sentendo la polizia che ti abbatte la porta di fronte urlando «Fermi tutti!». No, qualcuno più svelto era riuscito a darsela a gambe, o almeno ci aveva provato, magari quelli che erano in pausa a fumarsi una sigaretta. Gli altri se ne restavano fermi ai loro posti. Al massimo smettevano di lavorare, di cucire, di rifinire. Mettevano le mani sopra la testa e cominciavano a guardare in basso. Intanto gli ispettori della ASL esploravano il lurido capannone e annotavano pagine e pagine di irregolarità. Naturalmente erano tutti in nero, lavoratori illegali e nella maggior parte dei casi anche cittadini illegali. Immigrati clandestini, persone con documenti dai nomi impronunciabili che quasi mai sono veramente i loro nomi. Perché alla fine è vero che i cinesi non muoiono mai e i documenti passano di mano in mano. La polizia li ha portati in questura e dopo qualche ora erano di nuovo liberi. Sembra impossibile, ma è così. In fondo, come potrebbe la polizia trattenerne così tanti? È più facile, conveniente e discreto schedarli, o provarci, compilare un foglio di via, consegnarglielo e tornare a casa, illudendosi di non trovare quel foglio appallottolato in un cestino per i rifiuti. Loro, i lavoratori, lo sapevano che alla fine non gli sarebbe capitato niente di troppo spiacevole. E allora se ne rimanevano tranquilli a guardare i poliziotti che mettevano i sigilli alle macchine. In Cina non riescono a mantenere le famiglie, non hanno speranza di futuro, a differenza di qui. Il racconto di Liu ha scosso Federica più di tutte le dicerie e i luoghi comuni che aveva sentito sulle fabbriche. E poi le viene da chiedersi come mai le istituzioni non facciano niente. È spontaneo, perché alla fine pensa che un suo compagno di scuola al liceo è riuscito da qualche mese ad aprire un bar e ha già ricevuto due visite dalla finanza. Com'è possibile, allora? Perché imprenditori cinesi senza scrupoli possono mandare avanti aziende senza operai in regola? Perché al momento in cui subiscono una retata, dove si scopre che sfruttano le persone o semplicemente che infrangono la legge, non vengono puniti in maniera commisurata al crimine? Perché riaprono con un altro nome dopo qualche settimana? Perché ci sono due pesi e due misure? In fondo è così che si diventa davvero razzisti. Quando si fanno due pesi e due misure, perché pensi che in qualche modo loro vadano trattati diversamente? Perché? Perché l'imprenditore italiano deve rispettare certi standard e i cinesi no? Perché? Sottile è il confine tra razzismo e giustizia nel distretto industriale di Prato. Stretto intorno alla gola è quel cappio che l'11 dicembre 2001 ha consegnato Prato alla forca, deliberando l'ingresso della Cina nel World Trade Organization e sancendo di fatto che la globalizzazione avrebbe vinto anche tra le colline toscane, famose per i loro tessuti. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Davide Orsini, La muraglia cinese, l'inarrestabile avanzata dei cinesi a Prato. Avagliano Editore, 76 pagine, 10 euro.